Su una lista di discussione di Ceccati che ha per tema i libri e la lettura, sono passati i commenti di questo tenore. Ecco una barriera alla scrittura. Oppure, mandagli una lettera in braille sull'accessibilità, vediamo come la prendono. O ancora, assurdo, non ci posso credere, io gli mando una bella letterina rigorosamente mail. E altre polemiche di questo tipo. Più tardi, nella stessa lista, qualcuno ha postato un messaggio dicendo che ha scritto all'organizzazione del concorso chiedendo, o pretendendo, di poter partecipare via mail, e il permesso è stato accordato. Allora, maremma calligrafica, abbiamo mancato un'altra occasione di essere persone prima che Ceccati, di giocare secondo le regole, di non rivendicare e di non pretendere che il mondo giri intorno a sti Ceccati rompipalle. Come al solito molti orbacci zoticoni, a dispetto dell'alto livello di istruzione di gran parte di loro, vedono solo mostri e non sanno trovare l'essenza delle cose. Lo spirito di questo concorso, a quanto mi sembra di cogliere, è quello di recuperare la scrittura tradizionale. È un po' come quelle manifestazioni che vogliono recuperare professioni antiche, scomparse, modi ormai desueti di fabbricare oggetti di uso comune, di cui si sta inesorabilmente perdendo memoria perché sostituiti dalla produzione industriale e globale. Alla fin fine, un fatto ludico. Non è un concorso pubblico per un posto di lavoro. Se fosse così, sarei io il primo a stigmatizzare pratiche atte a rendere difficile o impossibile l'espletamento della prova da parte dei ciechi o di qualsiasi altra categoria svantaggiata. Quindi, in questo caso, chi partecipa deve, secondo me, accettare la sfida, compresa anche la ratio che soggiace a questo concorso. Certo, lodevole la loro apertura conseguente alle lettere dei Ceccati incazzati, ma mi chiedo, non è che per caso hanno derogato subito al divieto delle email per evitare poi di essere tacciati come quelli che discriminano i ciechi? Forse lo sanno anche loro che i ciechi, quando ci si mettono, sono dei gran rompipalle, e per le loro rivendicazioni giuste o sbagliate possono piantare su dei casini mostruosi. Detto questo, invece di fare delle polemiche sterili sull'accessibilità, dovremmo riflettere molto attentamente sul fatto che il mondo non gira intorno ai ciechi, e noi, prima di essere ciechi, dobbiamo essere persone ed apprezzare anche quello che di primo acchito sembra non esserci direttamente accessibile. Per molti di noi il mondo è ridotto solo alla loro cecità. Loro sono prima ciechi e poi persone e valutano tutto col riferimento primario alla loro cecità, anche quello che con la cecità non c'entra niente. Io mi sento prima persona e poi cieco, e la mia cecità fa parte del mio essere, anche se mio malgrado. Non possiamo chiuderci noi stessi con il pregiudizio che chi ha un'iniziativa non direttamente accessibile a noi ci discrimina. Secondo questo atteggiamento, allora non bisognerebbe più indire concorsi di fotografia o di pittura, oppure niente più concorsi musicali perché non sono accessibili ad un sordo. Quindi, ripeto, non chiudiamoci nel nostro bozzolo, pronti solo a vederci come ciechi discriminati da tutti. Impariamo a vedere al di là del nostro naso. In questa prospettiva, allora potrebbe anche essere interessante un concorso di lettere scritte in braille. Perché non proporlo agli organizzatori? Potrei fare molti esempi per cui un disabile avrebbe mille ragioni di incazzarsi. Le barriere architettoniche, la banca che non dà la possibilità di agire tramite internet o il telefono, rendendo impossibile a chi non vede di operare direttamente sul suo conto. Le discriminazioni sul lavoro, eccetera. Queste sono le cose in cui le regole vanno cambiate. Per il resto, impariamo a metterci in gioco secondo le regole che sono date per tutti. Ingegniamoci anche noi, oppure semplicemente non partecipiamo. Infine, è solo un gioco. Cordiali saluti, Marco.